Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, buonasera. Un affettuoso saluto come sempre da parte di Gesi e di Antonio. Caro Antonio, stasera abbiamo un ospite in studio. E, beh, intanto la salutiamo, è la signora Sonia Fagian. Sonia, buonasera. Buonasera Sonia. Buonasera. E benvenuta. Benvenuta e grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, adesso diamo la parola al nostro Antonio, che deve dirci tante cose. Allora, un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming, cioè in diretta dell'evento, e il relativo download del podcast della trasmissione. Senza dimenticare un saluto al nostro regista. Ciao regista! Bene, allora prima ascoltiamo un brano e poi parleremo con Sonia. Il primo brano in programma l'ho tratto da un'antologia di canzoni fiorentine e è intitolata Torna a Firenze. Non ho mai, sì, in radio non abbiamo mai fatto queste canzoni qua, comunque sono molto carine e molto simpatiche, ma siccome sta primavera così tarda a venire, e la canzone parla di aprile, di fiori, di tutte le belle cose che la primavera ci dovrebbe dare. È Alberto Bongi che ce la canta e la canzone è intitolata Torna a Firenze. Aprile, aprile, dolce dormire, sognare di te, sarà la primavera fiorentina che mette nelle vene un non so che, un non so che. Ti mando da Firenze un mazzo di viole, le ho colte al primo sole che le bacio per te. Ti mando da Firenze i sogni d'ogni sera, se mi vuoi bene ancora non ti scordare di me. Torna a ripeterlo per ogni giorno che passa e se ne va. Torna sul vecchio ponte, verso il tramonto t'aspetterò. Tutta Firenze in fiore sorride la speranza, non indugiare ancora, vieni ti aspetto amore. Aspetterò tutta Firenze in fiore. Eccoci di nuovo in studio e adesso parliamo con Sonia. Allora Sonia, ancora le do il benvenuto e così vorrei sentire da lei un po' che ci racconti un pochino della, non voglio sapere tante cose, ma un pochino della sua vita. Intanto dove abita? Ma io adesso sono residente da diversi anni a Martellago, però sono di Mestre. Sono nata a Mestre e ho vissuto anche là i primi anni della mia vita. E così, nella vita, che cosa ha fatto di bello? Allora, cosa ho fatto di bello? Allora, sono cresciuta in una famiglia, una bella famiglia, mamma, papà, sorella, poi c'erano i nonni paterni. E ho studiato al liceo scientifico e poi mi sono diplomata a Padova in statistica, il diploma è quello di 2 anni. E ho studiato pianoforte, lavoro da tanti anni. Sono diplomata in pianoforte? No, in pianoforte ho studiato seguendo i programmi ministeriali, sì, però non ho mai dato gli esami al conservatorio. Di nessun tipo, neanche di solfeggio, che è il primo esame che si dà? No, neanche la licenza di teoria. L'unico esame di musica che ho dato è stato quando mi sono iscritta alla SIAE in qualità di compositore, che allora ho fatto, una volta si usava, l'esame di compositore. Perché lei compone anche musica? Sì, compongo musica. Ho cominciato, dopo aver lasciato, diciamo, gli studi di pianoforte, ho incominciato a comporre all'età di 20-21 anni circa. E che tipo di musica? Jazz? No, un po' di tutto, guardi. Io mi scrivo classica, ho scritto anche un paio di Nina Nanna, un paio di canzoni di musica leggera, un brano jazz, e poi una cosa che ho fatto abbastanza di frequenza. Cioè, ho scritto abbastanza musica in questo senso, è stato quello di musicare testi sacri. Ecco, l'unica cosa che forse non riflette è quello che anche ascolto, perché musica sacra, io al di là, diciamo, delle Ave Maria, quelle delle Ave Maria celebri, tipo Gounod, Schubert, non l'ho mai ascoltata, perché in genere seguo, appunto, anche nello scrivere, anche poesia, racconti e fiabe, eccetera, scrivo quello che poi anche apprezzo come lettrice, ecco. E invece a scrivere poesie e racconti all'inizio ho cominciato da ragazzina, prima di scrivere musica. Quindi lei non è il primo libro che ha pubblicato questo che adesso... No, questo non è il primo libro che ho pubblicato. Il primo libro che ho pubblicato in realtà era più una stampa che una pubblicazione, non è mai neanche stato posto in commercio, però viene, mi pare che ci sia un'unica biblioteca, cioè quella di Marne, ed è Dimmi appena pensieri e poesie, che è una raccolta di poesie. Poi ho scritto Il padre, che è una raccolta di racconti brevi, sono diverse figure paterne, e invece questa è una pubblicazione. Poi ho stampato anche un libro di fiabe, perché mi piace molto scrivere fiabe, che si intitola Piccole fiabe, e infine questo di cui dovremo parlare oggi, sì, che è una raccolta di poesie. Però ho visto che del materiale per altre trasmissioni ce ne sarà. Anche musicali, poi, fra l'altro. Certo. Beh, a me la musica sacra piace. Piace, cioè proprio mi porta in un mondo molto, molto particolare. Sì, sì, perché comunque rimanda al fatto che i testi siano parole che abbiano millenni, sì, crea anche una certa sì, atmosfera, no. Come toccare la storia con mano, no? Certo, sì, a me fa proprio questo effetto, mi dà queste sensazioni di vivere in un altro mondo, in un'altra epoca. Bene, cosa dice Antonio? Leggi un po' la presentazione? La prefazione di Importanti argomenti, questo è il titolo dell'opera. La prefazione di Tiziana Agostini, assessore alle attività culturali del Comune di Venezia. Lo spirito poetico consente all'essere umano di riscoprire le proprie connessioni. La natura, gli esseri senzienti ed insenzienti, appaiono allora come una pennellata su di una tela che si credeva smarrita. L'armonia torna centrale anche nelle dissonanze e noi, donne e uomini, per un momento, giusto il tempo di un verso, perdiamo quella centralità che a volte ci pesa per lasciarsi divenire tra le parole del canto. Sonia Faggian unisce la sensibilità del poeta a quella della donna che osserva il mondo da un'angolatura speciale. Leggero il tratto, ma anche archetipico e quindi ancestrale. I dualismi vita-morte, ragione-sentimento si svelano in una danza non vorticosa che restituisce immagini impalpabili eppure vive, reali. è la vita che sboccia nelle pagine di questa raccolta, che pur nei momenti di malinconia non perde la densità dell'emozione forte, ma resa con originale delicatezza. Bene, allora adesso ci fermiamo un momento, ascoltiamo una canzone e poi parleremo con Sonia e daremo un primo saggio delle sue poesie. Allora, la seconda canzone in programma la canta Wes, vero si dice Wes, così? Wes, americano. Ecco, sì. I miei giorni felici. Che sapeva di te, ti mettevi un sorriso per venire da me. Siamo di nuovo in studio con Sonia e fra poco daremo un piccolo saggio, cominceremo a dare un saggio delle poesie di Sonia. Io volevo chiedere a cosa si è ispirata per scrivere questo libro, perché sono diversi momenti infatti. Sono diversi momenti, sì, perché poi questo libro nasce come raccolta di poesie e di quelle che ho scritto nel corso degli anni. Un po' sono tratte da Di mia pena, un po' da un'altra raccolta che è rimasta inedita e qualcun'altra è stata scritta in seguito, quindi è un po' difficile dirlo. Comunque posso dire che qualsiasi scritto, la poesia è più qualcosa che riflette più stati d'animo. Comunque un qualsiasi scritto, diciamo, l'idea o lo spunto nasce dalla quotidianità, da stati d'animo, da qualcosa che si è visto, da qualche scena che si è vista, da proprio bagaglio culturale, da tante cose. Un po' difficile dire, cioè, nessuna poesia, nessuno scritto ha un unico spunto. No, tante volte uno dice, beh, io mi sono ispirata per scrivere a questa cosa. Ecco, per esempio, adesso cominceremo a dare un piccolo saggio, poi ne parleremo. Sì. Antonio, tu cosa leggi? L'immagine del mondo. Bene. Quando guardo il mondo, mi soffermo sull'immagine di un volto di fanciulla, si smunto che i suoi occhi, perduti verso te, assai grandi paiono, e la bocca sua, nata per sorrisi di parole, muta rimane in quel sospirato grido di dolore per una parte di vita che deve pur compiere, ma del perché non sa. Innanzi a questa immagine, chi osserva con animo colmo di dolore o del nulla, chi altrove volge lo sguardo e chi a essa la mano porge, un manto poi l'avvolgerà di tristezza tessuto. Quando guardo il mondo, mi soffermo su un pensiero, che l'alba, tramonto, divenir non può. È molto bella questa, vuole parlare di questa poesia? Sì, ma io penso che sia anche facilmente comprensibile, sì. Nel senso che all'immagine del mondo non è altro che il viso di una bambina del terzo mondo, quindi una bambina che sta morendo di fame. Queste immagini purtroppo le vediamo spesso. Questa l'ho scritta diversi anni fa, appunto guardando il telegiornale, se non ricordo male, comunque. È anche una poesia che dice, che parla delle reazioni delle persone davanti, sì, a un'immagine simile. Difatti. Bene, adesso io leggo l'infinitezza dell'attimo. Beh, qui si capisce molto bene. Questa è un'immagine che uno vede. Il cielo plumbeo si riflette sulle acque salmastre. Il tempo, in rispettosa attesa, che arriva, v'è un gabbiano morente. Un ultimo battito d'ali. È un attimo, eppur infinito. Tontoni? Il mio mare. Coro di dolci parole, pare il mormorio delle acque che lambiscono la riva. Mi immergo e, come una madre premurosa, esse m'avvolgono in un caldo abbraccio, ove mi lascio cullare, dimentica d'ogni altra cosa. S'alza il vento e un tuono segue l'improvviso accendersi di plumbe e nubi, ma lontano. Urla divengono le onde che prepotenti si ergono, barriera tra me e te, improvviso nemico. Ma fra cielo e terra, ciascuno guerriero fulgido di propria bellezza, tu rimani il mio vittorioso mare, che seppur ora mi impaurisci, generoso sei d'attimi pregni di libertà che gelosamente nel cuor mio racchiudo. Ecco, questa è molto bella. E questa vuol parlare un pochino di questa poesia? Sì, forse dovevo premettere una cosa. Cioè, il libro si intitola Importanti argomenti, perché appunto le poesie sono raccolte, ma sono raccolte per argomento secondo un determinato anche disegno, che poi se volete vi spiegherò un attimo. Diverse sezioni. Il mio mare, quindi, sì, esatto. Sì, sì, sì. Il mio mare fa parte della sezione elementi, e quindi riguarda l'acqua. Ecco, l'acqua per me... anzi, il mare direi, perché avrei potuto anche parlare di acqua di in generale, o comunque di laghi, fiumi. Il mare per me è sempre stato il mio amore, mi ha sempre dato anche un senso di libertà. E quindi quando ho voluto parlare dell'elemento acqua, per me è stato naturale. Sì, comunque che mi impaurisci però. Qui dico seppur ora mi impaurisci, nel senso che quando il mare, diciamo, è in burrasca, diviene tempesta, cioè. No? Sì, comunque impaurisce, perché il mare comunque può essere anche luogo di morte, no? Però lo stesso, lo amo lo stesso. L'attrazione è più forte di ogni, sì, cosa. E sì, non ho detto anche infinitezza dell'attimo, sì. a che elemento appartiene? L'infinitezza dell'attimo appartiene alla sezione relatività. Quindi c'è questa scena, diciamo, come si ferma nel tempo, no? Identificata nell'ultimo battito d'ali. di un gabbiano che sta morendo, e quindi in questo senso relatività, perché viene catturata, è una scena di un attimo, però in quel momento il tempo si ferma, è come se non avesse, se non ci fosse tempo, è un fermo immagine. Per l'importanza, ferma l'immagine, mm-hmm. per l'importanza che riveste nell'attimo in cui muore il gabbiano. Se lei dovesse così comporre una melodia che parla del mare, insomma, che fa sentire il mare, come la sente? La sentirebbe lei una melodia? Io la sentirei dolce, sentirei proprio le onde. Sì, sì, che... Le onde, sentirei anche un qualcosa di molto libero. Ho capito. Bene. Allora, prima di procedere alle altre poesie, ci ascoltiamo la terza canzone, che è cantata da Julie ed è Cuore bandito. Tu, cuore bandito, con chi stai? Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra autrice, con la nostra ospite Sonia Falcian, alla quale chiediamo di recitare lei stessa una delle sue composizioni che ritiene particolarmente significative. Beh, io leggerei La bellezza. Bene. Accarezza la mano al figlio, che gongola, accogliendo il dono d'affetto del padre. Un padre anziano, lo sguardo d'una dolcezza infinita su quel bimbo dallo sgraziato corpo d'uomo. Incontro gli occhi del padre, io che incantata guardo, e non distolgo i miei. Mai ho veduto tanta bellezza. Bella. Ecco, e questa richiede naturalmente una piccola spiegazione. Esatto, certo. Questa è una scena d'affetto. Tra l'altro, La bellezza, da questa poesia ho anche tratto un racconto che è nel padre, che è appunto il padre e la bellezza. È una scena di affetto, una scena d'amore tra un padre e il figlio disabile. Quindi quando si parla su quel bimbo dallo sgraziato corpo d'uomo, è perché abbiamo un disabile grave. E quanto può essere bello vedere una scena del genere, bisogna proprio vederla per capirla, e ho cercato di renderla come se avessi dovuto dipingere un quadro. Dipingerla, sì. Ecco, la dipinta, certo. Proprio, esattamente. Allora Antonio. Bene, e allora adesso passiamo a un'altra composizione che è Il cielo s'allontana. Volar dei passi nei campi biondi di grano, le mani a sfiorarne le spighe, caldo abbraccio a madre terra. Aria leggera al profondo respiro, lo sguardo volto al sortir delle prime stelle, vera essenza di vita che ora s'allontana e porta pur con sé l'incanto del cielo. Qui non mi pare che ci siano tante spiegazioni, insomma, si capisce abbastanza, Sonia? Questa rappresenta l'aria, l'elemento aria, che la rappresenti, insomma. Questa che adesso leggerò è Utopia in realtà. Un altro mondo. La notte, volgendo lo sguardo al cielo, scorgo tra i lumi del suo vellutato manto una stella che mi pare brilli assai più d'un'altra. Libero la mente e viaggio verso essa, ov'è un mondo che scopro vissuto da gente in apparenza per niente strana. Regna sovrana un'armonia di suoni e di silenzi in luoghi quasi spogli, ma che odorano di vita. Ed è vita, non per udire, ma per dare ascolto, non per vedere, ma per sapere guardare, non per parlare, ma per dire il giusto. Allora mi scuoto e torno in me, con la certezza d'aver sì visitato un altro mondo. Ecco, sentiamo questa, che cosa... Il forte. Ah, chiedo scusa, ecco. Sì, no, sì. Volevo sentire la cosa ne dice di questo. Riguarda, abbiamo detto, l'argomento utopia realtà, e rappresenta appunto l'utopia, mentre in realtà era rappresentata dall'immagine del mondo che è stata letta prima. E direi un po' sarcastica, nel senso che c'è appunto il confronto tra un mondo molto in cui regna proprio sovrana l'armonia in genere, direi, e il nostro, perché appunto la protagonista, quando vanno a visitare questo mondo si accorgono che non è il nostro. Comunque anche questa è molto intensa. Tu, Antonio? La prossima è Il forte. Giunsi fin sulla vetta, ove quel che resta del forte mi narrò della guerra vissuta lì, come al fronte. Soldati, poco più che fanciulli, fermi ad aspettare il nemico, pronti a difendere la pur sempre amata patria. Destino, che ne sarà di noi? era la muta domanda. Chi scriveva all'amore, chi al padre e alla madre? Parole accorate, accese, sfinite, sconsolate, seguivano l'animo del momento. Venne il nemico e con esso le lacrime di chi non seppe più nulla. Fra quei monti, ove il sole che si rifletteva sui loro stanchi volti vi posava poi i suoi raggi come ultimo addio, il forte rimase per parlare, per dire a tutti che la guerra è sbagliata. È giusto, che la guerra è sbagliata. È un monito che si ripete sempre, ma certo, certo. Sembra che sia sempre inutile. Lei perché... vuole aggiungere qualcosa, Sonia? No, perché non, la storia dovrebbe essere l'esperienza dell'umanità e significa che l'umanità non ha fatto mai tesoro della propria esperienza, quindi non è mai cresciuta. Mai cresciuta purtroppo. No, cioè. Purtroppo le guerre ci sono sempre. Bene, ci fermiamo un momentino e ascoltiamo la quarta canzone che è cantata da Simona Molinari e Peter nome inglese Sincotti. La felicità. Ho fatto errori che ripensandoci non farei, ma questo mondo di meno tu chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Da una sorta di indolenza mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto, io la mattina sono già a lutto, io senza te non sarò più la stessa, vorrei tornare indietro amore aspetta, lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa amore, io per te farei di tutto. Felicità, perché senza te non so più cos'è la felicità. Bene, allora rientriamo in studio con la nostra Sonia e così adesso leggeremo delle poesie, un'altra tranche di poesie e così le commenteremo come abbiamo fatto fino adesso. Io volevo chiederle intanto, questo qui è l'ultimo che ha scritto, no, libro? Comandi? Questo è l'ultimo che ha scritto? Sì, questo è l'ultimo. Ecco. Ha qualcos'altro in cantiere? Sì, sì, sto scrivendo racconti, ho scritto anche ancora qualche poesia e ho incominciato un romanzo, però lo dico così, mantengo la parola e lo finisco. In itinere, ecco, è un impegno, diciamo che è un impegno. Ecco. Non si può dire il titolo, no, vero? No, no. Ancora è segreto. Vediamo un altro po'. aspettiamo un altro po'. I racconti sono già finiti, i racconti? I racconti, me ne manca ancora qualcuno. I racconti sarà questa volta, spero di riuscire a pubblicare tra un po' di tempo, però ci vorrà un po' di pazienza. Saranno di vario genere. Cioè, bello. Non c'è cioè, attualità, orrore, fantascienza. Anche però, fantascienza. Sì, oh, mi piace. Io sono stata una grande lettrice di fantascienza. Ah, sì? Ray Bradbury. Tutta la collana dell'Urania. Urania, mamma mia, famosa. Lei ama la lettura? Comandi? Lei ama la lettura? Sì. Quali no, sono? Non si può prescindere dalla lettura per scrivere. No, perché altrimenti non si hanno gli strumenti per giudicare i propri lavori. Vero. Bisogna leggere. La prima cosa è leggere. Essere appassionati leggere. Di lettura. Poi sono cresciuta in una famiglia in cui sia la lettura sia la musica erano l'ordine del giorno. Per fortuna anche mio marito, anche i miei figli sono dei gran lettori, per cui sono... Per noi è importantissimo. Suonano anche loro, anche i suoi figli? Comandi? Suonano i ragazzi? No, suonare non suonano, leggono tanto. Ah, leggono tanto. Mia figlia ha suonato per un periodo un po' il violino e un po' anche il flauto traverso. Però poi ha smesso. Però l'ha fatto. Il piccolo invece al momento non ha intrapreso alcun studio musicale, non è mai, quello non delle è mai scuole detto, comunque ancora presto, insomma. Certo. Io ho cominciato pianoforte a 15 anni, mio figlio aveva cominciato a studiare pianoforte ma dopo ha preferito la pallacanestro al pianoforte. Mi dispiace perché riusciva molto bene, era molto bene, comunque non è mai troppo tardi, ma insomma direi che forse sì, anche perché poi la mano si indurisce, quindi no, conosco persone che hanno cominciato anche alla metà e anche oltre sì? A intraprendere gli studi musicali, quindi la speranza, volere e potere. La volontà è sempre una cosa bellissima. Meno che non ci siano dei problemi, diciamo. Sì, di altra natura, esattamente. Va bene, allora procediamo con la lettura. Bene, procediamo con la fede, un tema impegnativo naturalmente. Un cupo dolore me dentro, sordo, mi batte forte al petto e non mi dà respiro. Par d'essermi smarrita in un deserto di solitudine, che nessuno può essermi compagno in quel che sento io. Eppure, per chi su di me poggia, debbo ritrovar rigore. A mia salvezza affiorano nella mente le parole d'un uomo di Dio. Ricorda, egli è sempre con te. E riscopro, con la fede, la perduta voglia di vita. Ne parliamo? Sì, mi pare che se ne possa parlare. Dunque, la fede è una poesia, chiaramente in parte anche autobiografica, nel senso che nella vita ho avuto e ho tuttora dei problemi non indifferenti. Ecco, diciamo che oltre diciamo al credere, quello che mi ha sempre sostenuto invece e che proprio è la mia fede più grande sono i figli, il fatto di avere i figli. Sono loro che mi hanno sempre fatta risorgere quando diciamo sono stati i momenti più bui. E comunque invece la fede in genere, o comunque la fede nel senso del credere in Dio, o anche la capacità anche di credere in se stessi, nella propria forza o nella propria mancanza di forza, quindi in questo senso anche nel chiedere aiuto, comunque appoggiarsi anche alla fede in questo senso, o come ho detto prima, è importante, per cui ho voluto renderla per far sapere che comunque in qualche modo non si è soli. Certo. Beh, io sono d'accordissimo con lei che bisogna credere anche nella nostra forza interiore in particolare, sì, e credere anche nella fede. Chiaramente se si crede in tutte e due le cose, penso che si possono fare tante cose, anche quando si trova in momenti di assoluta difficoltà. Ma credere in noi stessi, cioè più che dire io devo fare, devo arrivare, perché è necessario che io faccia questo e che arrivi a questo traguardo. Bene, allora leggo io adesso. Sì, a te. Allora io leggo l'ulivo. Germoglia da quel suolo, ove non sempre l'acqua coglie di passare tra colori spenti e pur colmi di celata passione. Le sue forme d'umana sembianza paiono perdute in un antico ricordo, che vi fu un tempo in cui accolsero e da allora custodirono, quale eterno segno di pace terrena, l'ultima preghiera da libero di un uomo chiamato Gesù. E continuiamo con le virtù teologali, con la speranza. Spero in un tempo in cui l'amore non più rimarrà custodito nel nostro cuore. Esso irromperà con la forza di quel che troppo a lungo viene imprigionato. Si spingerà per ogni dove, sui monti, sui mari, su ciascun essere, sino ai confini del mondo, che riavrà la sua luce. Qui? Diceva, può dire qualcosa, Sonia? Sì, ma la speranza direi che è anche collegata alla fede, infatti l'argomento è la fede e la speranza, che raccoglie queste due poesie. È un invito anche a non chiudersi in se stessi, quindi continuare comunque a sperare, la speranza è anche la nostra porta. Dicono che sia l'ultima a morire. L'ultima a morire, si spara. Comunque la speranza, la fede e la speranza sono due cose molto, molto utili per vivere, sì, cercare di vivere una vita serena, diciamo. Certo, credo che non si possa prescindere comunque anche da qualsiasi sia la propria fede, comunque non si possa prescindere dalle due cose. No, comunque avere speranza, sperare in qualcosa è come attaccarsi a qualcosa che ti sostiene, che ti guida, che ti aiuta a superare certe difficoltà. Adesso andiamo a vedere cosa dice il fuoco. Che questo cos'è, un alimento, elemento fuoco? No. Elemento fuoco come sì. L'ulivo era l'elemento tutto terra. Terra, sì. Risveglio da tavica sapienza. Proteggi e distruggi e il cuore scaldi di quel sentimento che di noi fa ciascuno, che d'altro modo s'appare spenti. Io ti ravvivo, fuoco, e non ti lascio languire. C'è una frase sulla quale vorrei una spiegazione. Dunque, risveglio di atavica sapienza, proteggi e distruggi e il cuore scaldi, vabbè, di quel sentimento che di noi fa ciascuno, che d'altro modo s'appare spenti. Ecco, è parliamo. La fiammella che c'è in ciascuno di noi, che ci rende individui, quindi ciascuno diverso dall'altro, e se non c'è questa fiammella s'appare spenti, nel senso che non si può non avere il fuoco in se stesso. Qui c'è il riaggancio alla scoperta del fuoco e a quello che è il fuoco in un individuo interiore, che è un elemento di vita vitale, anche una passione. Quindi io ti ravvivo fuoco e non ti lascio languire, cioè io mi mantengo sempre viva, mantengo vivi i sentimenti, non lascio spegnere praticamente quella fiamma che mi fa andare avanti, quella anche fiamma che di me fa, che fa di me un individuo, esattamente, un essere pensante. E lei parlava di racconti, di fiabe. Le fiabe sono già state scritte, vero? Le fiabe, sì, ho fatto stampare un libro, quindi non pubblicazione, una stampa, che si intitola Piccole Fiabe, si trova in più di una biblioteca, anche a Mestre. Non è in libreria, si possa comprare? In libreria attualmente no, non è in commercio, comunque è nella biblioteca centrale di Mestre, al centro donna, poi nella biblioteca pedagogica di Venezia e anche mi pare che sia anche a Martellago, la biblioteca di Merne. Sono diverse fiabe, direi anche attuali, qualcuna parla anche, per esempio il pirata Cricklord parla dei pericoli di internet, no, per i bambini. Sì, certo. Peccato che qui a Treviso Vabbè, si possono sempre... In qualche modo, quando riuscirò a farne qualche coppia in più... Contiamo sul lancio della nostra trasmissione, appunto, magari per poter integrare la questione. Appunto. Bene, allora ci fermiamo un momentino e ascoltiamo la quinta canzone, che è Dove sarai? Cantata da Julio Iglesias. Per un uomo che si ama si fa tutto, si va fino in capo al mondo. E malgrado la distanza fa scordare anche il bene più profondo. So per certo che verresti fino a qui col primo aereo. Se sapessi che in silenzio io ti amo, ogni giorno un po' di più. Dove sarai? Dove sarai? Dove sarai? Se di notte dopo luna ancora svegli, cerchi un'altra sigaretta. E leggendo un libro giallo la tua notte resta ferma e non ha fretta. Quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso. E sapessi che in silenzio io ti amo ogni giorno un po' di più. Dove sei? Dove sarai? Se poi quando fai l'amore con un altro fai così tanto per farlo, solo il corpo è per lui e nella mente io sottile come un tarlo. Dopo tanto e tanto tempo è come se mi amassi ancora. E sapessi che in silenzio io ti amo ogni giorno un po' di più. Dove sarai? Dove sarai? Dove sarai? Dove sarai? Ed eccoci ancora in studio con la nostra Sonia. Bene, allora proseguiamo con la lettura delle poesie e comincia questa volta l'autrice. Allora, leggerò Il giudice. L'argomento è uomini diversi. Eri un uomo. Che fede erano per te la legge, la giustizia delle cose? Che volgere altrove lo sguardo non potevi, quando intorno v'erano altri che muovevano legge a sé e famiglia, il male diveniva. Cercavi di riporvi nuovamente del bene che t'hanno spogliato di ciò che è più prezioso. Così tu non sei più. Loro resteranno. Anche questa mi sembra impegnativa. Sì. L'amministrazione della giustizia, giusto, la difficoltà nella... Sì, questa l'ho scritta pensando soprattutto al giudice Rosario Livattino, e comunque a tutti i giudici che poi hanno perso la vita per combattere la mafia. Il giudice ragazzino, questo il giudice era così... ragazzino, sì. Era stato definito così da Cossiga. Esatto. E poi tanto ragazzino non era, perché no, era più coraggioso di tutti. Assolutamente, è proprio questo, è proprio il contrasto straordinario di queste cose. Tu, Antonio? Bene. Allora, io leggerò Tarda primavera, e mi pare che ci siamo anche. Giorni tuoi ti han tolto, ora che sui prati nuova vita par tessuta, al sole consenti d'ardere con cocente passione. tarda primavera, lascia che il tempo segua il palpitar del cuore senza farlo scoppiare. Bene. Beh, non siamo a metà primavera adesso. Sì, sì, sì, tempi incerti naturalmente. Sì, sembrerebbe ancora a volte quasi inverno. Vuol dire qualcosa, Sonia, su questa poesia? Beh, mi pare che sia abbastanza, una poesia, sì, che comunque parla da sé. Quanto possa essere cocente, quanto possa essere forte una passione a una certa età. Certo. Io leggo Incanto. Quante parole, consunte in ogni luogo dal passare del tempo, mai uguali nell'animo di chi le rende e dono. Quante immagini evocate come se un'unica mente scorresse forme e colori per un paesaggio che pur sempre fa sognare. Quanti fiori spogliati dei loro petali per quietare animi ancor non vinti dalla stanchezza di sperare o dall'ebbrezza d'un bacio appena colto. Quante stelle scese dal cielo di notti rese insonni dal passioni mai sopiti e sì grandi da affaticare il cuore, e mille e ancora mille volte la storia si ripete, storia d'un incanto insito nell'universo e in tutto quel che è creato. Parliamo di questa? Questa io direi che è forse la più tradizionale che c'è nella raccolta, riguarda, come anche Tarda Primavera, riguarda un quinto elemento, diciamo, amore. Ecco. Sì. Direi che è una poesia d'immagini, come d'altronde sì, la poesia è fatta di immagini, è fatta di parole che rendono immagini. Proseguiamo con la poesia. Cuor d'animale. Lo guardo in quegli occhi dolci e profondi e un caldo affetto mi riempie l'anima. L'accarezzo sul collo morbido e fiero e la lealtà dell'amico mi lambisce la mano. Gli parlo nelle orecchie ritte e delicate e una giusta risposta mi sfiora la mente. Ma con penna e parole non riesco a dir bene che forse più di me comprende le cose, quelle importanti, che forse più di me sa che non sarò capace d'amar come lui col suo cuor d'animale. Oh, bella questa qui. Grazie. Beh, questa non ha... Beh, comunque a me piace anche molto... mi piace anche molto Incanto. Grazie. Beh, e Cuor d'animale è inserito nell'argomento animali, amicizia, sì, e ci tengo a dirlo a pieno titolo perché comunque si riferisce chiaramente al cane, il migliore amico dell'uomo, certo, e che sa che cosa vuol dire il verbo dare. Eh sì, io ho avuto per 21 anni un cane e quando mi è morto il secondo cane... ho avuto veramente un trauma. Ma, insomma. E penso di non aver più voluto bene così tanto. Non che non voglio bene ai cani, ma come a quella, alla Millie, si chiamava Millie, non penso di non aver più voluto bene così tanto. Bene, leggiamo l'ultima poesia. Guardami. Guardami. Le gambe non si muovono. Le braccia fanno fatica. Parole non riescono appieno a dire il mio pensiero, eppure il mio cuore sempre t'appartiene. Fanne quello che vuoi, ma non gettarlo via. Ecco, qui è molto chiaro, vero? Esatto, una spiegazione questa, poi abbiamo anche spazio per un'ultima canzone e per i saluti. Così qualche parola su questa ultima. No, questo è l'elemento amore, questo. Sì, dell'elemento amore. È l'amore, chiaramente parla della disabilità, no? Esattamente come la poesia alla bellezza. Esatto. Comunque sia, comunque il corpo non ci sia, l'anima c'è sempre e la capacità di amare c'è sempre. bisognerebbe andare oltre l'apparenza e andare alla sostanza. La capacità d'amare una persona che non riesce a dimostrarlo, diciamo, in maniera fisica, in maniera non, convenzionale, non è minore. Un messaggio forte. Sì. Ed ora andiamo molto forte. Andiamo alla canzone. E poi avremo i saluti finali. Va bene. Allora, l'ultima canzone in programma è Amica mia di Guido Renzi. Allora, Antonio, vuoi fare tu i tuoi commenti? Sì, diciamo che come sempre la poesia dà delle emozioni che non possono essere replicate in altre forme, secondo me. E vorrei anche conoscere il parere dell'autrice, se concorda con questo. Diciamo, è una sintesi particolare, un distillato praticamente di emozioni, di sentimenti. Sì, io concordo, perché comunque a rendere un sentimento, un'emozione, un'immagine con poche parole o con parole comunque diverse, perché esatto, non si usano gli stessi termini. Non c'è prolissità, non c'è possibilità di annoiare. È proprio un'altra cosa. È tutta un'altra cosa, esattamente. Però anche per chi le legge queste poesie deve, oltre che provare dei sentimenti, ma deve proprio entrare nella poesia, cioè vivere la poesia cercando di immedesimarsi nell'autrice o nell'autore della poesia. Esatto. Comunque sì. Sonia, io la ringrazio tantissimo di essere venuta e, come gli ho detto prima, abbiamo degli argomenti anche per una prossima trasmissione, ecco, noi ci agganciamo in genere con l'ospite, cerchiamo di indurlo, diciamo, a confortarci di nuovo. Se a lei fa piacere, se le fa piacere, se sarà disponibile a ritornare da noi. Grazie, vi ringrazio molto di tutto. Ecco, no, è promessa? Prometto, sì. Bene. Va bene. Ciao Antonio, grazie. Grazie e alla prossima volta. E un saluto a tutti gli ascoltatori col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.